Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Oggi, per fortuna, diciamo, tutte le borse non fanno notizia, più 0,16 Milano, più 0,15 Parigi, più 0,14 Francoforte, insomma. Siamo a decimali di differenza e faccio notare anche che da questo punto di vista i titoli migliori si chiamano Tenaris più 2,60, ST Microelectronics più 2,30 come Monte dei Paschi, Enel Green Power più 1,80, Enel più 1,30, Ubibanca più 1,20, Snam più 1%, il fronte opposto invece Mediaset meno 5%, A2A meno 3,50, Finmeccanica meno 2,90% e concludo con Tods che perde il 2,40 e Buzzi, Unicem e Atlantia che perdono il 2%. Per quello che riguarda i titoli, ieri molti dubbi sull'andamento della raccolta nel risparmio gestito, oggi per quello che riguarda il titolo Mediolanum che guadagna lo 0,60%, c'è l'assemblea straordinaria per la fusione tra Mediolanum e Banca Mediolanum, restano dubbi sulla raccolta. Per quello che riguarda invece altri titoli ancora negative, qui veniamo all'altro tema grosso della giornata, anzi il tema grosso della giornata, Fiat Chrysler tentava un rimbalzo, in realtà ancora sotto dello 0,30%, e qui veniamo alla vicenda Dieselgate, Volkswagen e quant'altro. Ora, le notizie sono tutto tranne che confortanti, no, sorrido perché veramente questa vicenda sta di giorno in giorno sta diventando sempre più esplosiva. Perché? Perché verso le 15, come i nostri GR24 vengono ricordato, si è saputo che verranno richiamate 11 milioni di auto. Ma non è una notizia di un'indiscrezione, è emerso dall'incontro a porte chiuse, se fa per dire, evidentemente qualche spiffero c'era, tra il nuovo amministratore delegato, nuovo anche in questo caso, si fa per dire, ha passato una vita in Porsche, che è il principale azionista di Volkswagen, nuovo, diciamo usato sicuro, visto che parliamo di auto, e lui è Matthias Müller, ha avuto un incontro a porte chiuse con circa 1000 top manager nella sede centrale di Volkswagen a Wolfsburg, dove ha annunciato che la Volkswagen richiamerà 11 milioni di vetture per sostituire il software incriminato, inviando una comunicazione ai clienti. Ora non so se ci rendiamo conto cosa voglio dire, anche in proporzione, se sono 11 milioni in tutto e le proporzioni che abbiamo visto sono più o meno 2/3 in Europa, anche fossero 7 milioni non abbiamo, cioè, solo in Europa, vogliamo dire 1.800.000 in Italia, ecco, immaginate cosa voglia dire solo in questo paese, per non dico avere 800.000 persone che devono recarsi dai concessionari. Giustamente un ascoltatore mi scrive al 349-238-6666 per i vostri sms, non sorrido per altre battute che state facendo, e c'è poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, mi scrive, ma insomma, se quando dobbiamo mettere le gomme per la neve e arriviamo all'ultimo c'è la coda dai gommisti, cosa capiterà adesso che un milione di italiani dovranno andare a farsi cambiare la centralina dell'Audi o della Volkswagen o della Seat, perché ci sono anche 600-700.000 Seat incriminate vendute in tutto il mondo. Quanto costerà? Costerà 6,5 miliardi di dollari, che guarda caso è esattamente la cifra che il gruppo Volkswagen ha già accantonato, ha già messo da parte, come è scoppiata come è scoppiato lo scandalo, come soldi che dovrà utilizzare per iniziare, a nostro avviso, a risolvere questo scandalo. Ancora, la cancelliera Angela Merkel è stata informata degli ultimi avvenimenti relativi al caso Volkswagen dal ministro dei trasporti, sì, e anche dalla stampa di tutto il mondo, e il governo tedesco è in stretto contatto con Volkswagen. Faccio notare che c'è questo silenzio assordante del ministro dell'economia e delle finanze tedesco, perché uno potrebbe anche dire qualcosa. Da noi ha parlato Padoan, per esempio, i ministri dell'economia parlano, ma il mitico Schäuble, il teutonico difensore della superiorità tedesca nei conti pubblici e nell'atteggiamento da avere in Europa, è completamente silente. Parla solo il ministro dei trasporti. Un po' strano, fosse successo a casa nostra avremmo avuto il ministro dell'economia che parla, perché è un grandissimo gruppo, il più grande gruppo di produttori auto al mondo, che è messo in crisi. Non parla il ministro dell'economia e delle finanze, che era molto loquace quando c'era da dare lezioni a tutto il resto d'Europa su come ci si comporta, sulla credibilità e su quello che è il rispetto degli accordi presi, anche di rispetto delle norme previste. 349, dicevo, 238-6666 per i vostri sms. Parleremo anche di questa benedetta voluntary disclosure, quindi l'emersione di beni, di capitali detenuti al riparo dal fisco all'estero. Oggi, scusatemi la gola, oggi è arrivata la proroga attesa, il governo aveva già anticipato che l'avrebbe fatta infatti martedì. Popolare di Vicenza, ahimè, arrivano i tagli dei dipendenti, 500 esuberi su 5.500, vuol dire 1 su 10, e non è ancora finita per gli azionisti. Ci stanno chiamando da Vicenza, dalla provincia veneta, dove ci segnalano situazioni di estrema difficoltà, e anche messaggi, e anche email, lettere, di azionisti della Popolare di Vicenza, che spesso erano non tanto grandi azionisti, ma anche piccoli azionisti che avevano acceso un mutuo e in cambio gli era stato chiesto di comprare azioni, o addirittura erano stati finanziati per comprare azioni. Lì ci sta creando una distruzione di risparmio, non solo di investimenti, ma di risparmio preoccupante, e qui mi fermo perché c'è chi dice che è preoccupante anche per l'ordine pubblico, ma insomma, per ora speriamo di no. Queste comunque le indiscrezioni delle misure contenute nel piano industriale della Popolare di Vicenza da qua al 2020, che sarà presentato domani, e 500 esuberi e 100 filiali su 700 che verranno chiuse. In realtà il taglio dei costi potrebbe essere anche più alto, 600 esuberi e 150 sportelli, ne parleremo. Una notizia positiva, parleremo anche di Marmomac. L'Italia, tra le varie leadership che ha a livello mondiale nell'export, ce n'ha anche sul marmo, che è un settore che vuol dire 4 miliardi di produzione di euro l'anno. Ieri abbiamo fatto il Cersaie, oggi faremo a Bologna, oggi faremo il marmo, poi aprirà il Salone di Genova. Insomma, sono tre appuntamenti fondamentali per il nostro Made in Italy. 4 miliardi, dicevo, la produzione, il 75% destinato all'export. Noi siamo il secondo esportatore al mondo di marmo dopo la Cina, con una differenza, e va detto, il nostro è un marmo di maggiore qualità e di maggiore valore aggiunto. Quindi un po' come ragionavamo ieri per il settore della ceramica arredo, soprattutto nell'arredo bagno, noi abbiamo dei concorrenti potentissimi con l'arredo bagno, sono Spagna, Turchia e Cina. Con il marmo c'è Cina, però riusciamo, per fortuna siamo riusciti, grazie alle nostre imprese, a spostarci sulla parte a maggior valore aggiunto di quanto esportiamo. Adesso rapidamente le altre notizie in breve. State chiedendo molto, e avete ragione, ma quando cambiamo il software della Volkswagen o dell'Audi o della Seat mi mettono meno potenza, meno coppie potenza, quindi io potrei non volere più il veicolo? Sì, adesso girerò questa domanda, non sono un esperto di auto, la guido e a giudicare delle multe nemmeno così bene, però non è chiaro che questo software ha come obiettivo di riportare le emissioni delle auto a livello almeno Euro 5, perché sennò scappi al delirio. Arriviamo al tema. Partiamo come sempre dall'economia internazionale. Tokyo oggi nuovo tonfo in borsa, non ha avuto ripercussioni come abbiamo visto sull'Europa, però meno 4%, di nuovo timori su una crescita cinese più debole del previsto. In India la banca centrale indiana ha tagliato i tassi di interesse più di quanto atteso, a segnalare una difficoltà dell'economia non in attesa da questo punto di vista, dello 0,5% li ha tagliati dal 7,25 al 6,75, le attese erano di tassi invariati o di un quarto di punto e in effetti la Banca Centrale Indiana ha giustificato la decisione con l'indebolimento dell'economia globale, i bassi prezzi delle materie prime che mantengono bassa l'inflazione anche in India e quindi possono permettere un aumento dei tassi di interesse. Non si accenna invece, non accenna a diminuire la pressione del dollaro americano sul real brasiliano, o meglio la svalutazione del real brasiliano nei confronti del dollaro americano, perché oggi è stato venduto a 4,14 reais, è la seconda settimana di deprezzamento della valuta brasiliana, che ricordo la scorsa settimana ha battuto il record di 4,24 reais per un dollaro. E ormai il debito delle aziende non finanziarie nei paesi emergenti, l'abbiamo raccontato più volte, il problema in questo momento di un aumento dei tassi americani è sostanzialmente che molte aziende, molti grandi gruppi dei paesi emergenti si erano in questi anni indebitati in dollari e adesso, visto che il dollaro si rafforza e si rafforzerà con l'aumento dei tassi di interesse americani, cosa succederà? Che questi gruppi continueranno a fatturare in valuta locale, che quindi si sarà deprezzata nei confronti del dollaro, pensiamo al reais o pensiamo allo yuan e alla rupia, insomma continueranno a fatturare in quella valuta, ma avranno un debito che, essendo espresso in dollari, avrà un valore reale più alto. Ecco perché oggi il Fondo Monetario Internazionale si attende che il debito delle aziende non finanziarie nei paesi emergenti, aumentato da 4.000 miliardi che era nel 2004 complessivamente a 18.000 miliardi nel 2014, possa avere una grossa o essere messo pesantemente sotto pressione e dice il Fondo Monetario queste imprese dei paesi emergenti si devono preparare all'aumento dei tassi di interesse che avvierà la Federal Reserve e casomai vengano monitorate queste aziende, perché altrimenti avranno grossissime difficoltà a ripagare un debito in dollari se fatturano in valuta locale che nel frattempo si è deprezzata proprio sul dollaro. Alcuni mi chiedono sulla vicenda Volkswagen, non ci posso credere che la nostra motorizzazione non ne sapesse nulla, oddio. Adesso, con tutto il bene che voglio la motorizzazione civile italiana, ma se hanno fregato gli organismi di vigilanza europei e americani finché non hanno fatto questo test, se varia la potenza occorre variare la carta di circolazione, quindi l'omologazione. Questa è una bella domanda, teoricamente sì, perché nella carta di circolazione c'è la potenza espressa in cavalli. E un altro mi chiede, gli porto un euro 5? Non ho capito, gli porto un euro 5 e mi restituiscono un euro 4? No, se fosse così la causa sarebbe immediata. Tu gli porti, da quello che noi abbiamo capito, un euro 5 presunta, perché le emissioni non sono da euro 5, e loro te la trasformano in una vera euro 5. Perché se li porti se dovessi riportargli un euro 5 e loro restituirti un euro 4, è ovvio che gli fai causa un secondo dopo perché non circoli più durante il blocco del traffico. No, l'obiettivo di ritirare un 11 milioni di vetture è proprio per trasformarle realmente nel tipo di qualifica di emissione euro 5, euro 6 per cui le comprate. Un altro mi scrive, citando il diritto, si tratta di aliud pro alio, cioè frode in commercio, milioni di persone possono agire per risoluzione del contratto. Altri scrivono, non basta cambiare il software, ci sarà un cambio anche del hardware, più costoso dell'iniezione. Ragazzi, ripeto, non ne capisco nulla di motori, capisco che 6 miliardi e mezzo forse sono pochi, e adesso vi arriviamo al tema.

mi hanno scritto ieri molti ascoltatori, ma lei non capisce quanto odiosa sia l'IMU. Ma certo che lo capisco, ho detto semplicemente che la cosa migliore sarebbe ridurre IMU, TASI, IRPEF e IRAP, ma se non puoi farlo andiamo a vedere dove c'è un'anomalia italiana. Nelle tasse sulla casa non c'è un'anomalia, lo dice lo stessa Banca d'Italia. Il peso delle tasse sulla casa in Italia rispetto al PIL italiano è in linea con gli altri paesi europei, 1,5% del PIL le imposte ricorrenti sulla proprietà immobiliare. Dove siamo più alti è sull'IRPEF dei lavoratori dipendenti, è del 22%, la pressione fiscale è del 22% più alta della media europea. Addirittura in Germania è più bassa del 20%, e in Spagna 16%, 14,5% in Regno Unito. Poi un governo, ha ragione il Premier, può scegliere se levare l'IMU, la TASI, che riguardano l'80% degli italiani, quindi hanno anche un forte elemento di carattere politico elettorale, non giriamoci attorno, o può levare l'IRPEF, che riguarda solo i lavoratori dipendenti del privato e anche del pubblico, non riguarda altre categorie, non riguarda i pensionati, non riguarda le partite IVA, non riguarda l'imprenditore. Da quel punto di vista riguarderebbe invece il mondo delle imprese un IRAP. Sono scelte di politica, ma non dite che bisognava levare l'IMU, la TASI, perché da noi hanno un peso incredibile. Il peso incredibile da noi ce l'hanno IRAP e IRPEF. Detto ciò, il vice direttore di Banca d'Italia Federico Signorini ricorda che i consumi delle famiglie potrebbero beneficiare di un taglio delle tasse sulla casa solo se sarà permanente. Le frequenti modifiche alla fiscalità immobiliare degli ultimi anni potrebbero indurre le famiglie a non reputare lo sgravio ora programmato come permanente, limitando gli effetti della misura sulle scelte di consumo. Si tratterebbe del quinto intervento in 7 anni. L'imposta sulla proprietà della prima casa, come ricorderete, è stata abrogata dal 2008, reintrodotta nel 2012 con l'IMU, sostanzialmente eliminata nel 2013, ripristinata nel 2014, dal 2014 con la TASI. In ultima analisi, l'effetto dell'eliminazione della tassazione sulla prima casa dipende dalla misura in cui essa sarà percepita come permanente, dal suo impatto sull'efficienza del sistema della finanza locale e sui servizi erogati dagli enti locali, dal miglioramento del clima di fiducia nelle prospettive future dell'economia, che potrebbe essere indotto dall'aumento di spese delle famiglie. Allora, la buona notizia che arriva dall'ABI, che sono aumentati, l'ABI e l'Associazione delle Banche Italiane, sono aumentati dell'86% le nuove erogazioni di mutui per l'acquisto della casa. Fatemi fare una battuta, facile lì, la casa ce l'hai come ipoteca, noi vorremmo vedere aumentare le erogazioni di mutui alle imprese e ai cittadini per non per l'acquisto immobiliare, ma soprattutto ai piccoli e medi imprenditori. Le banche hanno gioco facile nel fare il mutuo per la casa, ripeto, hai l'immobile come ipoteca e ti sbagli poco. Comunque, più 86% le nuove erogazioni di mutui per acquisto di immobili nei primi 8 mesi del 2015 rispetto ai primi 8 mesi del 2014. Mentre da questo punto di vista il complessivo delle erogazioni è stato pari a 28 miliardi e 920 milioni di euro rispetto ai 15 miliardi del 2014, quindi sono 8 miliardi in più. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, meteo e poi rientro dei capitali e poi anche il Marmomac, la borsa. È un'altra pagina del Dieselgate che riguarda per ora solo ed esclusivamente la Volkswagen. Focus Economia. minuti, adesso arriviamo alla borsa. Prima vorrei capire che cosa ne pensano, insomma, come hanno accolto anche questa interminabile vicenda del rientro dei capitali, la voluntary disclosure. Attenzione, è una misura molto importante perché il governo ci punta molto anche per la manovra finanziaria. Stando a questi ultimi aggiornamenti, il governo avrebbe già reperito, grazie alla volontà di disclosure, almeno 1 miliardo e 400 milioni di euro. Che cos'è? È la possibilità definitiva, ultima, per tutti quelli che hanno i capitali all'estero, nei paradisi fiscali, di dichiarare quanto hanno. Non è uno scudo, nel senso che vanno a pagare, entrano in patrimonio, pagano in dichiarazione dei redditi anche per i prossimi anni, per cui entra a tutti i livelli nella tua dichiarazione dei redditi. E però il termine è fondamentale, perché doveva scadere praticamente il primo ottobre. Perché è fondamentale? Perché se tu non aderisci alla volontaria disclosure, sostanzialmente poi verrai sanzionato molto molto pesantemente, e anche a livello penale, per cui è una specie di ghigliottina: o lo fai adesso o non lo puoi più fare. La proroga era stata chiesta anche dal mondo dei commercialisti, e infatti, dopo che tra l'altro oggi abbiamo avuto notizia che è arrivato lo stop all'aumento dell'accisa invece sui carburanti, e il governo prevede, ecco perché le due cose si legano, che i mancati introiti dell'aumento dell'accisa sui carburanti verranno compensati dalle maggiori entrate della voluntary disclosure, e ecco perché le due cose si tengono. L'evitato aumento dell'accisa vale da solo 730 milioni in meno, quindi il governo ha già incassato 1,4 miliardi, deve incassare almeno 730 milioni per pareggiare i conti con l'accisa, ma la cifra complessiva è più alta. Siamo in collegamento col presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Milano, Alessandro Solidoro, raccoglie 8.000 iscritti, 8.000 commercialisti. Buonasera, presidente. Buonasera. Rapidamente, l'avevate chiesta voi con forza questa proroga, spieghi sì. A tutti perché, ma anche se vuole fare, non dico un ultimo appello, perché questa non è la radio dell'appello agli evasori che hanno portato i soldi illegalmente nei paradisi fiscali, ma ricordiamo che cosa prevede la legge se tu non aderisci alla volontaria disclosure e hai capitali all'estero. Prego. Sì, allora, sui due temi. Partiamo dal secondo. Lei ha correttamente sottolineato che è l'ultima chiamata. Questa è l'ultima chiamata per regolare posizioni che si sono costruite in passato, nel tempo, frutto di scelte maturate in tempi completamente diversi e oggi incompatibili con la realtà attuale. Incompatibili con la realtà attuale, incompatibili con il corretto rapporto con il fisco, incompatibili con gli strumenti per l'accertamento che oggi esistono, insomma, retaggi di un mondo che non esiste più. Questa è l'ultima chiamata importante, come lei ha sottolineato correttamente, non è uno scudo, quindi le imposte si pagano tutte. Avere ancora situazioni di questo genere chiuse questa finestra sarebbe veramente una follia per... Ecco, perché si va oltre che nel civile anche nel penale in maniera molto forte, prego. Sì, prego. Assolutamente, ci sono responsabilità di tipo civile, ci sono responsabilità di tipo penale, che con l'adesione ai voluntari, per le fattispecie ovviamente non di natura criminale complessa, però trovano una soluzione. Quindi questa è una finestra da non perdersi a tutti i costi. Visto che questa valutazione... Sì, anche perché, mi scusi se interrompo, abbiamo visto la Svizzera con gli accordi, che sì. Poi lo scambio sarà in automatico dal 2017. Sì, è proprio quello che dicevo. Adesso è una su realtà... richiesta, ma 2017 tutto quello che tu hai in Svizzera non c'è neanche più bisogno dell'autorizzazione, verrà scambiato come se ce l'avessi in un'altra banca dell'Unione Europea. In Lussemburgo la stessa cosa, adesso certo che restano le Cayman, l'isola di Man e altri simpatici luoghi dove si va non solo per le palme e i cocktail, però diventa rischioso, non lo dico è dovere anche dirlo, nel senso. No, assolutamente. Quando le dicevo è incompatibile anche con i sistemi di accertamento oggi disponibili, alludevo a quello, cioè quello che una volta era un mondo torbido e difficile da scandagliare è diventato un mondo trasparente. Poi esiste sempre una nuova frontiera per chi voglia correre il brivido, però è un brivido. Adesso poi che c'è acqua e dolce e salata su Marte, ne avremo di nuove. Sì, però dico... sì, ce n'è sempre una, senza ombra di dubbio. Diventa difficile però fare un bonifico da Marte, poi quindi evidentemente sono spazi sempre più angusti, sempre più complessi. E poi tornando invece al primo dei due temi, proprio perché questa valutazione è una valutazione che abbiamo fatto tutti, hanno fatto gli operatori, ha fatto il governo e tutto sommato hanno fatto anche i contribuenti, e il motivo di una mancata proroga risultava veramente difficile da capire, perché la proroga va nell'interesse di tutti. Oltretutto con questa aggravante, cioè la voluntary non è una pratica dove uno compila un modellino e fa un versamento, è una pratica che richiede una ricostruzione contabile analitica di anni di rapporti bancari intercorsi con una miriade di istituti stranieri. Il risultato di tutto questo è un lavoro complesso, cioè non è che lo scopri l'ultimo giorno, che occorrono settimane per farlo. Per questo che per noi la prova era un fatto inevitabile già prima delle vacanze estive. Noi l'abbiamo richiesta anche come Ordine di Milano a giugno, a luglio, perché era evidente che i tempi sarebbero andati lunghi. Se fosse avvenuta allora, probabilmente sarebbero stati tutti gli operatori sarebbero stati più sereni, perché avrebbero potuto programmare la loro attività, certo, in maniera diversa, non avrebbero mandato via clienti che sono arrivati negli ultimi periodi, ai quali si è detto: ma guarda, non c'è tempo materiale, perché non è una cosa che si fa schioccando le dita. E quindi sembrava proprio un'occasione persa. Rimane comunque, francamente, una proroga al penultimo giorno anche un po' un'occasione persa in un rapporto. Sì, si poteva dire prima. Comunque, esatto, in un rapporto che almeno avrebbe reso. Almeno il fatto che ve la proroghino dal 30 settembre al 30 novembre vi dà sostanzialmente 2 mesi, per cui questo, sì, dovrebbe servire. Chiedo? No, cioè, ci mancherebbe, è un ragionamento leggermente diverso, che non ha a che vedere con la circostanza di poter finire i lavori, ha a che vedere con la circostanza di poterli programmare. E questo tutto sommato è un valore, la programmazione del lavoro per gli intermediari è una cosa seria, quindi a saperlo a luglio uno si sarebbe organizzato conseguentemente. Invece le assicuro che, viste le moli che saranno impressionanti per le aspettative che abbiamo noi di questo fenomeno, invece ha costretto tutti a degli stress lavorativi pazzeschi per cercare di ultimare, che non hanno reso serenissimi gli operatori. Ma adesso ce la dovreste fare comunque? Beh, adesso per novembre ce la faremo di sicuro. Ecco, secondo lei, detto tra di noi, chiudo, le stime del governo sono ottimistiche su quanto incasserà dalla volontaria disclosure, o quello che voi vedete è molto interesse? Insomma, perché qua noi raccontiamo ancora i 200 miliardi di euro depositati in queste simpatiche località non note per la qualità del mare, diciamo. Sì, sì. Neanche per il vento, se per questo, però se devo valutare il numero delle pratiche e il numero delle pratiche giacenti sui tavoli dei colleghi che si occupano in maniera decisa di queste di questa attività, le dico che la mia aspettativa è per una immersione assolutamente importante. Bene, grazie, era importante ricordare, visto che proprio dai commercialisti è arrivata la richiesta: per favore dateci un po' più di proroga. Bisogna essere molto laici su questo. È chiaro che chi ha portato i capitali all'estero illegalmente ha commesso un reato. Il governo però deve intascare, almeno questa volta, a differenza dello scudo di Tremonti, non pagano solo 5 o 7 e mezzo, 2 e mezzo la prima volta, poi 5, poi 7 e mezzo, pagano tutto, e resta nella dichiarazione dei redditi, quindi la paghi quest'anno, permettiti in regola, ma la paghi anche gli anni prossimi, cioè. E quindi poi il giudizio morale è un'altra cosa, ma lo Stato, a meno che incassi tanto. Ma ci ricordiamo di quando con il primo scudo di Tremonti su 100 miliardi rientrati si incassò solo 5 miliardi. Dai. Traffico e poi la Popolare di Vicenza e la Borsa. Popolare di Vicenza è un'altra di quelle vicende che temo non esauriremo oggi. Traffico. Gran Moravia e Burro delle Alpi di Brazzale. Fidati di chi conosci da 200 anni. Vi presenta Focus Economia. minuti. Adesso arriviamo anche alla borsa, ripeto, giornata oggi poco da commentare: meno 0,16% Milano, meno 0,30% Parigi, meno 0,35% Francoforte e Londra meno 0,60%, Mediaset meno 4,90%, mi è partito un accento meridionale su Francoforte, A2A meno 4,1%, Finmeccanica meno 3,40%, Tenaris più 2,45%, ST Microelectronics più 1,90%, come Monte dei Paschi, l'1,40% Enel Green Power, l'1% Saipem. Euro su dollaro a quota 1,12, migliori e peggiori, così li do. RWE più 6,60%, Edge Capita più 5,50, Biera più 4,90%, Eukedos meno 6,40, Axelero meno 5,60, Digital Brothers meno 5,20%. Popolare di Vicenza, quindi parliamo di titoli non quotati. Se conoscete la vicenda, gli avvisi di garanzia, le inchieste e soprattutto le indagini, il presidente della banca Giovanni Zonin, l'ex direttore generale Simone Sorato, indagati con l'ipotesi di reato di aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza. E poi la situazione contabile disastrosa, il terzo aumento di capitale in 3 anni, da 1,5 miliardi, dopo che si è scoperto, grazie agli ispettori della BCE, che la Popolare di Vicenza aveva finanziato per quasi 1 miliardo di euro suoi clienti affinché con questi soldi che gli dava comprassero azioni della Popolare di Vicenza a un livello altissimo, tra l'altro 62,5 euro, sono già scese a 48 euro. La banca quindi è stata obbligata a riscrivere 600 milioni di euro come riserve disponibili e accantonare 350 milioni, da lì l'aumento di capitale. Il punto è un altro, che oggi sono arrivate le prime brutte notizie purtroppo per i dipendenti della Popolare di Vicenza. Oltre 500 esuberi su 5.500 persone e chiusura di 100 filiali su 700. Questo è il piano industriale 2020, addirittura si dice 600 dipendenti e 150 sportelli. Fabio Pavesi del Sole 24 Ore, questo chiaramente fa parte di un piano per rimettere a posto i conti. Non abbiamo invece altre notizie, ma a meno che non le abbia, sul fronte, da un lato svalutazione del prezzo dell'azione, nessuno crede più che resterà a 48 euro il titolo, e lo dico purtroppo perché molti risparmiatori l'hanno comprato a 62,5 e non potevano venderlo perché non era quotato, e dall'altro vorremmo capire se questo è l'inizio, ahimè, di una torta così che assomiglia, che non è fatta esattamente di cioccolato. Prego. Rispondo alla prima questione, probabilmente con la quotazione il prezzo dell'azione scenderà ulteriormente, cioè quella caduta da 62 a 48, quel taglio del 23 è solo la prima parte, perché basta fare un conto, il patrimonio netto oggi è di circa 3 miliardi, sono in giro 94 milioni di azioni, vuol dire che un'azione vale 30 euro, se si va a quotare probabilmente ci sarà uno sconto su questo patrimonio, perché tutte le banche quotate, anche le migliori, non valgono l'intero patrimonio, quindi in questo momento teoricamente l'azione vale meno di 30 euro e ovviamente la strada della quotazione dà trasparenza, perché finalmente il prezzo sarà deciso dal mercato e non dal CDA, che si autoriunisce con un esperto cosiddetto indipendente che mette lì una cifra del tutto aleatoria, come hanno dimostrato le inchieste. Ma prima o poi pagheranno, è un mio inciso, anche questi esperti indipendenti, le società di revisione. Ogni volta che c'è uno scandalo in questo paese, da Cirio a Parmalat, sono cose molto diverse, giustamente si chiama in causa la Consob, la Banca d'Italia, ma sti revisori, sti consiglieri dipendenti che beccano pure il gettone, per gettone di qualche decina di migliaia di euro spesso, ma che servono? A guardare queste cose a nulla, non so, l'esperto indipendente ti dice che lui valuta il valore dell'azione sui dati di bilancio che la banca gli ha dato, ma se stesso, i dati di bilancio che la banca che ti ha dato, dice io non devo appurare la veridicità, io lavoro su quello che mi danno, se però il bilancio, l'inchiesta è ostacolo alla vigilanza e quindi il bilancio era di fatto un po' artefatto, e l'esperto dice io non sto a valutare se il bilancio mi danno è finto o vero, io uso quella roba lì, però allora a questo punto basta ragionare sotto casa, spesso sono esperti bocconiani strapagati e mettono, come dire, la loro opinione al servizio della banca. Il collegio dei revisori, la categoria bocconiano. Beh, sì, Sapelli, attenzione, cioè potrebbero anche laureati alla Cattolica, alla LUIS. In Italia molte di queste perizie sui valori delle azioni non quotate sono fatte dalla scuola di Guatri, cioè il Guatri, professore di economia e finanza aziendale, con tutti i suoi allievi, e spesso ci si rivolge a loro perché hanno competenze. Però ieri hanno intervistato Mauro Bini, che è stato il valutatore di quest'ultima cosa, e lui ha detto: io non sto a chiedermi se il bilancio è vero, io lavoro sui dati che mi hanno dato, erano i dati del 2013. Dico io, peccato che Bini avrebbe dovuto accorgersi che la Banca Popolare di Vicenza accantonava fondi su crediti malati per la metà della media delle banche italiane. Quindi se tu ti accorgi che la svalutazione è minima, io qualche sospetto che il bilancio sia un po' gonfiato ce l'avrei. Cioè, o tu hai solo creditori di grandissima qualità. Esatto, di grandissima qualità, ma si è visto che non è così. È successo con Carige, con MPS, cioè tutte le banche andate in crisi è perché non accantonavano a sufficienza crediti malati. Visto che ancora, non ho ancora niente, per cui resta con noi dopo il GR24, però leggo a Fabio e agli ascoltatori anche una nota appena arrivata dalla FABI, che è il sindacato dei dipendenti di banca. Se i 600 esuberi del gruppo Popolare di Vicenza dovessero essere confermati, ci troveremo di fronte alla solita beffa confezionata d'arte contro i lavoratori. Riteniamo inaccettabile che le colpe di una gestione tutt'altro che trasparente vengano fatte pagare ancora una volta ai dipendenti. Contrasteremo in tutte le sedi questa politica selvaggia di taglio al costo del lavoro, mandare a casa il 10% da attuale organico, impoverendo le risorse e professionalità. Vabbè, insomma, secondo me la cosa più forte oggettivamente è il fatto che la colpa della gestione ricade sui dipendenti. Beh, devo però lasciare linea GR24, ci sentiamo fra circa 6-7 minuti. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Allora, stavamo concludendo con Fabio Pavesi la parte che riguarda la Popolare di Vicenza. Ho letto la nota della FABI, del sindacato dei dipendenti di banca, che dice inaccettabile che paghino i lavoratori. Questo però, Fabio, per concludere, è l'inizio del piano che il nuovo AD sta facendo, oltre all'aumento di capitale per riportare inutile la banca o comunque a pareggio la banca. Se riesci a rispondere anche però a alcuni ascoltatori che mi stanno chiedendo, hanno bisogno di fare una surroga con la Popolare di Vicenza, e altri invece vogliono aprire direttamente un mutuo con loro, prego. Ma la gestione continua ad andare tranquillamente, ovvio. La surroga, la legge Bersani la prevede, non vedo perché debbano negarla. Un mutuo, certo. E in passato, quando chiedevi un finanziamento, ti chiedevano di comprare azioni. Credo che questa pratica sia oramai finita con la nuova gestione, quindi non vedo nessun tipo di problema. Il piano industriale sarà un piano pesante, nel senso che se vuoi tornare a fare gli utili, che dimostrano che la banca ce l'ha fatta, avendo quelle rettifiche sui crediti che hanno fatto andare in perdita per 1,8 miliardi negli ultimi 18 mesi, non può che tagliare il costo del lavoro. Cioè è quasi inevitabile che il nuovo amministratore delegato intervenga tagliando, perché è l'unico modo per riprendere redditività, proprio perché è quella mole, come dire, da digerire, di crediti svalutati e di avviamenti svalutati che spero siano finiti, non può che intervenire sulle voci di costo. E sì, la cosa amara è che pagano i dipendenti e pagano i soci, cioè il problema della gestione un po' disinvolta, poi vedremo l'inchiesta dove approderà, della banca negli ultimi anni, è appunto che alla fine il conto finale lo pagano i 90.000 soci e lo pagano sostanzialmente i dipendenti. Avviene così in tutte le crisi bancarie, avviene così in tutti, come dire, le gestioni disinvolte. Purtroppo con il bail-in, cioè la nuova norma che ha introdotto la Banca Centrale Europea sulle banche da lei vigilate, sarà sempre più così. Lo dico con la massima trasparenza: il bail-in prevede che pagheranno in primo luogo gli obbligazionisti secondari, poi gli obbligazionisti secondari e anche i correntisti fino sopra i 100.000 euro, cioè i primi 100.000 sono tutelati, gli altri no. Solo a quel punto potrà intervenire lo Stato, come è avvenuto anche in altri casi bancari. Questa nuova norma è chiaro che responsabilizza molto di più azionisti e anche obbligazionisti e devo dire anche i correntisti. Quindi sì, surroga e mutuo, e il piano sarà un piano di lacrime e sangue. Nel ringraziare Fabio Pavesi, noi restiamo in Veneto, ma non per parlare della Popolare di Vicenza e non per parlare di una cosa negativa, ma ci spostiamo un po' più in là a Verona per parlare di una cosa positiva che è la leadership a livello mondiale che ha il nostro paese nel settore del marmo. Domani si apre la 50ª edizione di Marmomac, che è la più importante manifestazione mondiale per il marmo e le tecnologie di lavorazione del marmo. Faccio notare che a livello mondiale, dopo la Cina, ci siamo noi come secondi esportatori. 3.400 aziende per 34.000 addetti, un valore della produzione che si avvicina ai 4 miliardi di euro l'anno, di cui il 75%, quasi 3 miliardi, sono esportati. Ne parliamo con il presidente di Verona Fiere, Ettore Riello. Buonasera, presidente. Buonasera a tutti, buonasera Barisoni. Sono numeri che hai già detto tu, che sono però dei numeri veramente strabilianti, perché sono numeri importantissimi questi, che rappresentano il dinamismo di un settore che chiude, diciamo, con numeri eccezionali e apre invece il nostro marmo, ma con 1500 espositori. Sono quasi 900 esteri che provengono da 55 nazioni. Credo che il grande sforzo che abbiamo fatto di dare una veste internazionale a questo settore sia stato veramente l'elemento di grande successo. Quindi partiamo veramente molto forte e, voglio dirlo, in un settore che pochi anni fa ha sofferto dei crolli anche del 70%. Quindi veramente un vanto, un merito a queste aziende che sono riuscite a riguadagnare terreno in modo eccezionale. Quindi una gran bella manifestazione che spero dia veramente ulteriore lustro. Ecco, presidente Riello, visto che lei ricordava appunto i 1500 espositori provenienti da 55 paesi, Marmomax si concluderà il 3 ottobre. Immagino però che agli ascoltatori, al di là dell'interesse che ci può essere specifico, interessi capire se anche da questo settore, che è uno dei punti di forza del Made in Italy, quando parliamo dell'export. Ieri eravamo al Cersaio di Bologna, fra due giorni saremo al Salone Nautico di Genova, quindi sono date molto importanti non solo per gli espositori e visitatori, ma anche per capire se quella ripresa che l'Istat fotografa in maniera aggregata, che fa arrabbiare alcuni ascoltatori che non la vedono proprio, voi riuscite un po' a vederla anche nel numero di adesioni di interesse? Beh, cioè la vera, diciamo, risultanza positiva proviene dall'estero, che è un grande sforzo delle aziende che si sono orientate all'estero. Qui abbiamo anche trovato una sponda con il vice ministro Calenda sul progetto del Made in Italy, e quindi finalmente siamo riusciti a far passare il concetto che la fiera è un pezzo della leva della politica industriale di un paese. Però non posso che trovarmi molto allineato con le lamentele di chi vede ancora sofferente un mercato italiano. C'è qualche timido segnale di ripresa, ma il mondo, diciamo, soprattutto dell'edilizia, è un mondo che in questo momento non sta per nulla aiutando. Qui stiamo solo consolidando, dico, un grandissimo risultato della politica estera, spinta anche dal paese, devo dire, quindi trovo questo molto interessante. Non mi stancherò mai di dire che dobbiamo, come italiani, e così come fanno tanti altri paesi, avere un occhio di maggior riguardo al mercato italiano, che al di là del marmo, anche in tanti altri settori, è preda dei produttori esteri. Sì, noi su questo abbiamo un atteggiamento laico. Se il produttore estero viene per mantenere poi la produzione in Italia, il know-how, come è venuto in molti casi, il passaporto non conta. Altra cosa è andare a svendere le aziende o avere acquisizioni che vengono fatte per levare un concorrente dal mercato, per essere molto molto diretti. Grazie e in bocca al lupo anche per il marmo, ma ripeto, a livello mondiale la più importante manifestazione in questo settore. Grazie al presidente di Verona Fiere, Ettore Riello. Il traffico e poi Volkswagen. Ha fatto il calcolo un nostro ascoltatore: se devono ritirare 11 milioni di vetture e ammettendo che costi 150 euro mettere la nuova centralina, altro che 6 miliardi e mezzo, qui siamo già a 17 miliardi di euro, senza considerare i costi dell'officina e del tempo libero. Quindi, tanto il traffico. Focus Economia. We expect both. Volkswagen to explain the situation. Ci aspettiamo che Volkswagen spieghi la situazione. La Commissione vuole vedere dei fatti, vuole andare fino in fondo alla questione. Il nostro messaggio è chiaro, ci aspettiamo che Volkswagen collabori con le autorità nazionali e che rispetti le regole europee. Credo che al momento sia ancora troppo presto per trarre conclusioni su cosa sia necessario fare esattamente. La commissaria Biankowska ha in mano la situazione ed è in contatto sia con gli azionisti Volkswagen che con gli altri stati membri. La Commissione sta lavorando per arrivare ad avere il quadro completo prima di decidere quali potranno essere i prossimi passi da compiere. L'incertezza presente sui mercati mondiali si è aggiunta negli ultimi giorni quella connessa con le possibili ripercussioni, difficili oggi da quantificare, del grave scandalo Volkswagen sul settore dell'auto. Allora, il primo era Riccardo Cardoso, che è il portavoce della Commissione Europea dopo l'incontro di oggi a Bruxelles tra il presidente del settore auto passeggeri della casa tedesca, appunto la Volkswagen, e il commissario europeo per i trasporti. E l'altro invece era il vice direttore della Banca d'Italia, che ha detto insomma non capiamo ancora gli effetti. Allora, gli ultimi aggiornamenti del Dieselgate, che ormai è un bollettino: a breve richiameremo fino a 11 milioni di veicoli, ha dichiarato il neo, si fa per dire, amministratore delegato Matthias Müller della Volkswagen. Gli analisti dicono costerà 6,5 miliardi. Il semplice calcolo fatto dal nostro ascoltatore è un po' diverso, cioè 150 euro per ogni veicolo, per ogni centralina. Si arriva già così solo a 17 miliardi. E ancora la SEAT ammette che ci sono emissioni truccate su 700.000 auto nel mondo, ritirati dalla vendita di 3.200 veicoli Volkswagen in Spagna, misura preventiva. Poco fa il Portogallo ha sospeso 50 auto SEAT a rischio. Messo. L'affare qua non si allarga ma si ingrossa, si allarga e si ingrossa. Da questo punto di vista è sempre peggio. Andrea Malan del Sole 24 Ore, buonasera. Andrea Malan non è ancora in collegamento. E allora abbiamo Gianprimo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora Gianprimo, insomma, noi abbiamo fatto tantissimi collegamenti in questi anni per commentare il mercato dell'auto. Questo è uno dei più difficili. Però, hai ragione. Iniziamo a dire una cosa. Il calcolo che fa il nostro ascoltatore, 17 miliardi, non è così fantomatico. Che cosa devono cambiare in queste 11 milioni di vetture? Perché ce lo chiedono tutti. Cioè, io porto un'auto Euro 5 e mi resta Euro 5, mi porto un'auto Euro 6, mi resta Euro 6. E che costi avrà? Perché anche immaginando 150 euro, che mi sembra un costo basso, visto quello che costa quando vai da un carrozziere qualunque cosa... Insomma, qua siamo a 17 miliardi, non a 6 miliardi e mezzo. Quagliano. Ma adesso non vorrei sbagliarmi, ma mi pare che il lettore abbia sbagliato. Mi dica. Perché 11 milioni di autovetture per 150 non fa 17 miliardi. No, lui sommava anche tutti i costi, perché 150 euro, voglio dire, è il minimo che noi possiamo immaginare. Poi c'è il costo della carrozzeria, o il carrozziere lo fa gratis questo? Io vorrei capire questo e che cosa, se lo spieghi agli ascoltatori, va a cambiare da questo punto di vista. Cioè, che cosa mi tocca nella macchina? Cambia il software? Mette qualcos'altro? Perché sai che io non l'ho ancora capito. Prego. Beh, oddio, intanto il software va modificato, va eliminato questo software che influisce sui controlli. E poi, a rigore, la vettura non dovrebbe più essere in regola con i parametri, perché senza l'intervento dei software non è in regola con i parametri, quindi bisognerebbe riportare la vettura in regola con i parametri stabiliti in Europa e anche negli Stati Uniti. Sì, ovviamente. Però ci chiedono gli ascoltatori. No, cosa vuol dire? Vuol dire, secondo me, adesso io non sono un tecnico come tu ben sai, io penso che la soluzione sia quella di diminuire i consumi e quindi la potenza, al limite lasciando la centralina in funzione non soltanto quando si fanno le prove ma sempre, la vettura rientra nei limiti. Questo comporta però una perdita di potenza. Ecco, allora vengo alla seconda domanda che ci fanno gli ascoltatori. Guarda che è complicata questa vicenda. Io vado dal carrozziere, dalla concessionaria Volkswagen, mi cambiano non solo la centralina, dici tu, perché sennò, voglio dire, io a quel punto non sono più Euro 5, divento Euro 4, mi devono cambiare qualcosa in modo che io che le mie emissioni siano Euro 5, ho capito bene? Non è solo un software. Adesso non lo so che cosa devono cambiare, sì, però no, di fatto se lasciamo in funzione la centralina e riduciamo la potenza, cioè se la centralina funziona sempre, già la vettura rientra nei parametri, perché la centralina governa il funzionamento della vettura quando è sul banco di prova. Se la governa sempre, naturalmente rientra nei parametri. Bisogna dire che cosa vuol dire in termini di perdita di potenza. E a cui però corrisponde anche un miglioramento dei consumi, positivo. Sì, però quello che ci chiedono gli ascoltatori è: va bene, io porto questa macchina al di là del caos, perché non oso pensare quanto ci metteranno 11 milioni di vetture, non so, a Spagna in Italia saranno 900.000, 1 milione se vado a distribuire le proporzioni. Sì, credo molto meno, perché qui c'è un po' un balletto di numeri. Questi 11 milioni però sono dato della Volkswagen, quindi sì, potrebbe essere corretto. Ecco. Poi la ripartizione per paese è tutta da definire. Vabbè, mettiamo che siano anche. Io non oso pensare cosa capiterà in questi mesi, ma detto questo, e io vado lì, mi cambiano e mettono non tanto la centralina, non è che la centralina devono cambiarla perché truccava le emissioni, fanno in modo che io emetta a livello di Euro 5, così. Beh, cambiarla o riprogrammarla, c'è un software all'interno della centralina, un software si può mettere e si può anche rimuovere. Certo. Sostanzialmente è come se fosse un computer la centralina. Sì, no, chiaro, però l'importante è che quello che io emetto alla fine sia norma, se ben capisco, cioè certo, sia Euro certo. 5, perfetto. Tu mi dici, c'è un calo, ci sarà un calo della potenza, questo lo capisco anch'io. Per essere Euro 5, se non vuoi la centralina truccata, il software truccato con la centralina, dovrei emettere meno potenza, che si misura in kilowatt, no? Come si misura? Sì, esatto. Beh, sì. Non in cavalli, come ho detto, chiedo venia in maniera incorretta prima. Ora, ci chiedono gli ascoltatori due cose. Mi va cambiato anche il libretto. Il libretto riporta un numero di chilo che non ho più. Ma questo si potrà fare una sanatoria, basta un decreto che stabilisce che per quelle vetture il libretto si legge corretto, se è stata fatta. Metti un timbro sul libretto, per carità. Dopodiché io che ho comprato una macchina per una certa potenza, mi ritrovo una macchina con un'altra potenza, secondo te a nessuno viene voglia di fargli causa alla Volkswagen? Perché uno dice, ha anche il diritto di dire, ho comprato una macchina che doveva avere questa potenza motore perché mi piace quella potenza motore, va bene? Mi ritrovo con una macchina che è come se fosse scesa di cilindrata, diciamocela tutta, come nell'immaginario dell'ascoltatore. E secondo te questo non potrà dare aiuto a nessuna causa, o tu getti acqua sul fuoco perché hai capito che è un tale germinaio sta roba che prima si risolve meglio, Ma no, io non sto gettando acqua sul fuoco, cerco di capire come stai cercando di capire tu e come stanno cercando di capire gli ascoltatori. A me sembra che se c'è un calo di potenza c'è anche un calo nei consumi, quindi poi alla fine poi la potenza, se portava a delle velocità superiori ai 130 km all'ora, non poteva neanche essere utilizzata fino in fondo. Insomma, qui c'è materia per gli avvocati per discutere per anni come succederà certamente. Cioè c'è un danno, ma c'è forse anche un beneficio, quindi qual è il bilancio? Il bilancio bisogna farlo. Io credo però che Volkswagen tirerà fuori un'idea, farà una proposta che cercherà di accontentare un po' tutti. Certo. Sì, sul calcolo adesso abbiamo rifatto noi, si è sbagliato l'ascoltatore, glielo dico, in effetti è 1,7 miliardi più la somma dei 100 euro, si arriva a sostanzialmente 3 miliardi qualcosa. Non lo mandiamo a ottobre, lo bocciamo. No, ma i calcoli li abbiamo rifatti noi, abbiamo i messaggi in diretta, è chiaro, dateci il tempo di fare i conti. Miliardi. A chi me lo scrive, non so fare 11 milioni per 150 euro mentre sono in diretta, adesso l'abbiamo rifatti, viene fuori una cifra diversa. Stavo leggendo il messaggio di un ascoltatore, secondo me comunque la stima di 6 miliardi e mezzo è ancora per difetto, perché questo è solo il costo pulito per riportare la macchina senza nessuna causa, senza nessuna multa, senza niente da questo punto di vista. Multa anche delle autorità nazionali, per cui 6 miliardi e mezzo accantonati restano troppo bassi. Qualcuno mi dice, essendoci il dolo si può anche recedere il contratto, non lo so, onestamente non mi occupo di contrattualistica. E in una battuta, ma insomma, Ma il dolo non è nei confronti del consumatore, semmai. Beh, insomma, Gianprimo, anche nei miei confronti. Adesso. Però detto Sebastiano, voglio tornare su questo con te, perché io voglio capire da te, insomma, se l'industria dell'auto A, se tu temi che sia solo Volkswagen o si possa allargare. B, capire che cosa ci ha portato a questo, perché ripeto, è difficile anche per noi seguire di giorno in giorno gli sviluppi di questa, di questa vicenda. Se la cosa si può allargare, non lo so, adesso vedremo se salterà fuori. E poi un ragionamento invece lo facciamo un'altra volta su come mai un colosso come Volkswagen si sia infilato in una, in un cul-de-sac del genere, per cosa? Per il primato, per non avere il coraggio di dire che non ci potevano stare dentro. Comunque, intanto ti ringrazio, sento anche la tua grossa preoccupazione e perplessità, auguro anche a te buona serata, come a tutti gli ascoltatori, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.